二胡曲江河水，汹涌澎湃。 古琴曲，歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇里等演唱，意大利蒙特卡洛歌剧院合唱团乐团演出。 Di già la principessa Essa vedo la Roma Zos, quella vedo la fretta ricca, passabilmente 14 milioni. Salute! A tempo il conto un capo sbaglio. Le donnine, le carte, le bottiglie, i cavalli, niente. Si stava freschi, si stava freschi, che le donne senza soldi. Al padrone, alla sposa, alla bove, a noi. Silenzio, ricapitano, no. La principessa su sveglia di padrone. Thank you. E poi,

resti sì. Il suo nome non lo mento vicino provo sforzati cerca cerca cerca cerca sciocco e sublime ci fate languire. Una porta la sua croce, vedete anch'io è un talismano. In questa antica croce erano mia reliquia. Io vi deposi un farmaco che sana ogni malo. Per voi o per gli amici? Chi lo sa? Grazie! Grazie! And queste ordini per la Russia. Partito. A mezzanotte. Venga domani. Poi verremo allora. Addio, addio. Risponde, principessa un disfatto.